I lavori di domani di Anna Marino. Emozioni e razionalità si possono combinare e portare all'intelligenza emotiva è un lavoro di oggi e di domani. Vi parliamo dell'emotional quotient, la cui abbreviazione è EQ. E infatti l'EQ facilitator è un facilitatore di esperienze di apprendimento trasformazionali di alto impatto basate su principi neuroscientifici, come l'impatto appunto delle emozioni sulla sfera cognitiva. L'EQ facilitator si avvale delle emozioni per progettare ed erogare percorsi di sviluppo individuale e di gruppo, ottimizzando apprendimento di qualsiasi contenuto. Per ottenere questo risultato, utilizza la propria intelligenza emotiva per progettare ed erogare eventi formativi emozionalmente ingaggianti per i partecipanti e per lui stesso, nella direzione di un cambiamento positivo. Se siete interessati a questa sfera a 360 gradi che riguarda l'intelligenza e l'emotività, come sempre e come in ogni puntata del lavoro di domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni, la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. E oggi, grazie a Liliana Selva, EQ Facilitator, vi spieghiamo in che cosa consiste il suo lavoro. Alcune definizioni per fare chiarezza e comprendere meglio questo job title. Innanzitutto, EQ sta per Emotional Quotient, ovvero per quoziente emotivo. E così come esiste quello forse che più conosciamo, ovvero il quoziente intellettivo, esiste anche il quoziente emotivo, che misura questa risorsa, questa competenza che abbiamo a disposizione, che è l'intelligenza emotiva, di cui sentiamo sempre più parlare e che è una competenza misurabile attraverso alcuni strumenti ed alcuni assessment. Quindi l'EQ Facilitator facilita percorsi di apprendimento esperienziale che si basano sull'intelligenza emotiva. Ovviamente la tua giornata tipo è un po' particolare, perché sì, anche in questo momento di emergenza Covid è tutto un po' più virtuale, ma in ogni caso l'intelligenza emotiva non viene meno, è così? È così, peraltro io come master trainer per Six Seconds accompagno i professionisti che vogliono diventare EQ Facilitator. Lo faccio da tanti anni in una modalità virtuale, quindi per noi il virtuale non è una novità. Lo facevamo finché era possibile anche in modalità live. È importante dire che la metodologia sulla quale noi ci basiamo per costruire questi percorsi è una metodologia che fa l'occhiolino alle neuroscienze. E quindi noi siamo esperti di neuroscienze per poter rendere i nostri eventi formativi di altissimo impatto, potendo quindi ottimizzare le competenze che i nostri partecipanti si portano a casa, e l'impatto è preservato sia nella modalità live che nella modalità più virtuale. Mi sento di dire che anche l'esperienza digital, quindi quella di autoapprendimento, può essere costruita da un EQ Facilitator proprio utilizzando questa metodologia, che prevede una fase di attivazione, perché le neuroscienze ci raccontano quanto l'apprendimento passi dal canale cinestesico, per cui noi abbiamo bisogno di toccare con mano, di vivere in modo diretto l'esperienza per poter apprendere in modo più efficace. Un'altra fase che è quella della riflessione, cioè cosa mi porto a casa da questa attivazione, cosa ho imparato, non solo del contenuto ma anche di me stesso, guardandomi da fuori in modo critico per aggiungere dei tasselli di consapevolezza. Dove ti sei formata? Quali sono i tuoi percorsi? Sì, allora io nasco nella divisione HR, per cui dopo aver fatto la gavetta nell'ambito delle vendite per tanti anni ho avuto l'opportunità di cominciare per gioco, oserei dire, a formare dei colleghi venditori, perché mi riusciva di vendere. A un certo punto il mio capo mi disse: senti, fai una cosa, entra in aula e racconta agli altri quello che fai per vendere. E se dovessi pensare oggi ai danni che posso aver combinato, perché ho cominciato in modo forse inconsapevole. Negli anni ho scelto di acquisire delle competenze e quindi di fare questo mestiere in modo consapevole, per cui ho cominciato ad aggiungere alla mia esperienza sul campo, aggiungere una formazione specifica, quindi prima un percorso di formazione formatori e poi un master in gestione delle risorse umane. Sono stata HR manager di un'organizzazione di oltre 2000 lavoratori per diversi anni, per poi a un certo punto della mia carriera decidere di lasciare quel ruolo, di lasciare il lavoro dipendente, perché non c'era più un allineamento valoriale tra me e l'azienda. Ed è stato lì che ho incontrato Six Sequence, è stato lì che ho incontrato l'intelligenza emotiva e ho fatto tutto un percorso di certificazioni e di approfondimenti di pratica dell'intelligenza emotiva che poi mi ha portato al momento, secondo me, chiave della mia carriera, che è stato l'EQ Facilitator, che è proprio un percorso tenuto da Joshua Friedman, che è uno dei massimi esperti al mondo di intelligenza emotiva, che mi ha portato a comprendere come portare le neuroscienze e l'intelligenza emotiva nel mio lavoro. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority? La seniority, come dici tu, è un tema chiave, per cui possiamo avere una forchetta di guadagno che dipende dalla seniority della persona e anche dal livello di complessità del progetto che il nostro committente, il nostro cliente ci chiede. Volendoti quantificare, noi potremmo arrivare a un range di 500 euro a giornata di consulenza, per arrivare anche a derogare delle formazioni complesse, articolate, arrivando anche a 2500 euro a giornata. Quali percorsi consigli per la formazione della tua figura e se è un lavoro ricercato e dove si può trovare? Io credo che sia un lavoro che definirei del futuro, perché credo che tutte le organizzazioni abbiano bisogno di formatori che sappiano massimizzare l'impatto del loro lavoro e trasformare una formazione in cui il docente è un canale per veicolare delle informazioni ad un facilitatore il cui lavoro è attivare delle esperienze in cui le persone apprendano da loro stesse. Quindi è una trasformazione enorme, e là dove le aziende non ce l'hanno internamente si rivolgono all'esterno, quindi a professionisti che siano in grado di attivare questo tipo di percorsi. Un tema sulla sostenibilità, per esempio, è legato alla capacità di rendere sostenibili i risultati nel tempo e quindi poter far sì che i risultati siano non solo immediati, e soprattutto la motivazione, l'ingaggio e la performance delle persone non siano immediati ma siano duraturi nel tempo. Questo è anche sostenibilità. E adesso è l'ora di prendere appunti, ma li troverete, lo dico agli ascoltatori, anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta e penna, i vostri device e via con gli appunti. Sentiamo quali indicazioni, app e siti per formarsi e informarsi e per la ricerca del lavoro. Noi, come sempre, come ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito, perché no, anche dritte sulle opportunità per questa figura. Grazie a Liliana Selva possiamo dare qualche consiglio, qualche dritta. Quali? Innanzitutto di consultare il sito Six Seconds Italia, dentro al quale si trovano tutte le informazioni utili per capire quale sia il percorso per poter arrivare alla formazione come EQ Facilitator. È una certificazione che si può ottenere, e quindi per potersi orientare all'interno del nostro modello e delle competenze, quindi allenare l'intelligenza emotiva nonché orientarsi nel percorso formativo, il sito è un canale molto importante. Un altro strumento che suggerisco è la piattaforma EQ.org, ed è una piattaforma internazionale di allenamento dell'intelligenza emotiva, dentro al quale è possibile trovare un mare di risorse relative appunto all'intelligenza emotiva e alla sua applicazione pratica quotidiana, sia nell'ambito life che nell'ambito business. E all'interno di questa piattaforma è possibile anche visionare dei webinar tenuti da diversi esperti che danno informazioni molto concrete, pratiche e spunti di allenamento. L'altro e ultimo suggerimento che posso dare è quello di seguire su LinkedIn la pagina appunto di Six Seconds, perché è un luogo nel quale vengono inserite informazioni riguardo eventi che vengono organizzati in tutta Italia e non solo, anche a livello globale e internazionale, che molto spesso parlano proprio di cosa serve per essere pronti e preparati ai lavori del futuro e quindi come attrezzarci per navigare la complessità di questo futuro che ci aspetta. Che tipo di sviluppo vedi per il futuro e per la sostenibilità della tua figura? Perché fondamentalmente qui la parola chiave è la sostenibilità. Sostenibilità sì. Anche nel senso di utilizzo delle tue competenze per la resilienza delle organizzazioni, delle imprese, sì. Delle risorse umane. Ecco, la sostenibilità è la parola chiave, ma non è solo parola, ma è anche fatti. Ecco, il futuro e la sostenibilità del tuo lavoro. Per quella che è la mia esperienza, la mia sensazione è che il futuro si stia riducendo nella linea temporale. Quando parlo di futuro con le persone riescono a immaginare a 3 mesi, a 6 mesi, forse a 1 anno. Ecco, secondo me questo non va a braccetto con la sostenibilità, perché la nostra capacità di valutare l'impatto guardando ad un futuro più lontano e quindi a che cosa generiamo non solo domani, ma che cosa genereremo negli anni, è una competenza fondamentale. E quindi io vedo nel futuro la necessità di allenare le persone e le organizzazioni a non guardare solo al problema contingente, alla soluzione immediata, ma saper spingere oltre la loro vista e la loro visione. Attenzione, perché la domanda è chiave: che cosa vuol dire Six Seconds? Six Seconds è il nome appunto di questa società che racconta in quanto tempo il nostro organismo assorbe le molecole la cui funzione è quella di comunicare dei messaggi. Le emozioni sono esperienze che il nostro corpo vive perché il cervello ha deciso di comunicarci un messaggio specifico. E quindi noi amiamo dire che abbiamo 6 secondi di tempo per cogliere la saggezza di questa esperienza emozionale.